capisci. Ti sento bene. Oh, benissimo. Aspetta che mi dai un controllo adesso, un attimino, eh. Adesso mi coppi? Sì, ti ascolto. Segnale 3, sì. E radio è buona comunque, ti ascolto bene. Vedi, anche senza vitamine ti arrivo giusto anche laggiù. Molto bene. Quest'ultimo passaggio ti ho sentito meno. Ok, scusate un attimo che c'è il bambino che mi chiede un succo. Vado in bianco un attimo, dopo. Ciao. Avanti Andrea. Hey, Giovanni, a me mi copri? Sì, a voi, chi sei tu? Ok, io sono invece in zona via Mendola. Sì, ti sento bene, anche a te, ti sento bene. A voi. Cappa. Avanti Danilo. Sì, no, Giovanni, no, Giuseppe. Giuseppe è uscito anche un pochino meglio adesso. È uscito, ha abbassato è salito di radio e è sceso di segnale. Però la radio è perfetta adesso. Adesso è proprio comprensibile. Secondo me ha spento la potenza, però è migliorato di radio. E quando hai antenna è inutile che ci metti in massa, capito? Infatti, rischi di bruciare tutto così. Qui al centro pettino Danilo esce benissimo lo stesso, è bella radio, bello tutto, segnale tutto. Dov'è che sta arrivando la polettata a quarta ora? Bellissima, pulita. Adesso se fai un passaggio guardo, mi inchino e guardo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, la Peppina fa il caffè, com'è? Il caffè va benissimo, il segnale 5, la radio però non riesco a vederla perché il display è tutto consumato qua. Aspetta che c'è il casino qua, non ti ho capito, la radio? Il segnale è bello, non so quant'è la radio perché il display non si legge molto bene. Beh, dai. Ah, va bene, come andate a sentirmi, dai, va bene. Mi sento forte e chiaro e anche pulito. No, ci butto tutto, Raga, qui Rix. Va bene, Andrei, va bene, già siamo qua. Aspetta un attimo, Giovanni, faccio la prova col baracchinetto, aspetta. Quel passaggio è risalito a 7. Guarda un poco questo. Con questo il segnale è a 5, però l'ultimo che hai fatto prima di cambiare, sei salito a 7. Ero a 7, questa è un'altra radio, L'ultimo passaggio che hai fatto eri salito a 7, con questo sei a 5 di segnale, Tappa il rosmetro, aspetta un secondo. Guarda adesso com'è la storia. Madonna, se sei salito a voglia, sei salito a 7. Ma c'è la differenza? A maniera che vera differenza. Credo che se ne siano accorti tutti, Cava. Questo è il cavallo di battaglia, Ma lo sai, anche lineare sai. Questo è un drone, È uno piccolino, ma ce l'ho attaccata alla macchina, cazzo, lo volevo mettere, ma è un casino, adesso non aiutare con i miei a smontarne tutto. Cava, questo già non è tanto. Tanto piccolo! Oltre i 7 si è andato adesso. Sali. Poi se non so se i segnali sono giusti quelli che mi dava questo fatto di radio, Cava, ma la modulazione è buona, sì. Aspetta, pulita, ne sentivo sogni di altri stasera, cazzo, due o tre erano proprio incomprensibili, proprio pieno di consigli, una modulazione sporca proprio. Vabbè, se noi possiamo ancora aumentare un pochino, se non innesca. Per me va bene così, io ti sento benissimo, pulito, chiaro e sono appena di volume che ho levato, Tappa di rosmetro, dai. Va bene, poi questo lì. Però a me l'eco sinceramente non mi piace, io qui ce l'ho nel microfono e va bene, è amplificato che così ho staccato il microfono, però non sono amante dell'eco. Cappa, dai. Questo era il andiamo al 45, dai, in propaganda, vado. Inizia bel tempo. Io stasera sono andato nelle bande laterali e ho sentito qualcuno. Ora vi copiate? Forte e chiaro qua, dammi un controllo adesso. Scuscio. Hai un passaggio? Guarda un po' che ho cambiato la radio. 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco. scappa. 9.10 qua con picchi a 9.20 radio super 5, forse anche troppo 5. Capo, guarda, ho detto come la prima. Va bene, tutto funge, dai. E tu come mi copi, come prima, peggio o meglio? Guarda, va bene, radio va benissimo, ti posso dare controllo di segnale perché questo, insomma, tu sei affidabile, sei sempre no, comunque. La radio è buona. Kappa, va bene. Andrea, ci sei? Andrea si è sentato un attimo, mi sa. Sono ormai in Russia, ci siamo sentiti anche qualche annetto fa, non è frequenza. Scusa, che c'ho il bambino che piange, non ho sentito una mazza. Ho detto, se non sbaglio, qualche annetto fa siamo sentiti noi. Prova adesso che l'ho lanciato. Vecchi me. Avanti. E stavi dicendo, Sguscio? No, stavo rifacendo un controllo perché ho spostato l'antenna, solo che c'è mio figlio a voci, questo gli stacco la testa e ci gioco a calcetto. Va bene, dai. Sei sceso un pelino di segnale adesso. L'ho perso un po' di segnale. Sei sceso a 7. Sguscio, ci sei? Eccoti Valentino, ti sento più basso. Adesso sono più basso perché ho tolto anch'io il rinforzino. Kappa, e che rispetto a prima come mi senti a me invece? Più o meno come prima, il QRM ce n'è un po' di più forse, però sale e scende, capito? Kappa, vabbè, la rimetto com'era, dai. Gava. E Danilo dov'è? Danilo, ci sei? Beh raga, ci rimango in ascolto. Ci sentiamo quando rientrate, ciao. Va bene, dai, io sono qua, dai. Non so che ci sia arrivato. Se c'è ancora Giovanni, non lo so. Eccomi. Eccoti. L'ho rimessa come la prima l'antenna, se mi copiate ancora. Kappa, Sguscio, a me arrivi forte e chiaro. Ok, dai, c'ho anche meno stazionari e così già va bene, dai, lasciamo tutto così. Tanto ci sono anche io qua. Dani, ti stavo rilanciando. Sono andato un attimino a togliere la lampo dal giubbotto di mia figlia. Cava, bella e bella. E allora, com'è, tutto bene? Sì, tutto a posto. Kappa di Rosmetro, sempre là stai lavorando, sì? Per fortuna sì. Vabbè, mi hanno trasferito, però sono sempre lì. Nella postazione ti hanno messo, dai. Ma vabbè, è meglio così, dai. Ci sta bene anche lì, però stavo meglio su perché su conoscevo già tutto. Conoscevo già tutto quanto il ferro, ma è metalli là. Invece giù devo rifare tutto quanto da zero. Vabbè, piano piano. Là, ti rimetti in sesto come di là. In sesto già sono sempre in sesto, però a ricordarmi tutto quanto da capo non è in un altro deposito, è tutto un macello. Poi quando ti sei ambientato giù te ne porto nuovo su. Magari. Infatti succederà così alla fine. Come sempre, come tutte le cose, capita a fare una cosa e poi mi torni a dove di prima, quello lavoro che facevi prima, diciamo. Tipo la pallina ping pong. Oh vabbè, già è bello saper fare tutto, almeno così non sai fare più cose. No, bello già è bello perché io so fare un bel po' di cose, il muratore proprio non lo so fare, però tutto quanto il resto sì. Però ti dico la verità, distruggere macchine, smontare motori, riconoscere pezzi di macchine, pale varie, ti fa pensare anche molto, quello sì, perché poi non sono tutti uguali e ognuno ha le sue criticità da affrontare, tutte cose. Poi il bello è riconoscere i pezzi e capire esattamente il tipo di macchina che puoi montare, un altro tipo di motore che è compatibile. Ha anche lì arriva il bello, vedi? E ricordati dove li metti poi. No, vabbè, ricordati dove li mettiamo già, è tutto quanto segnato. Tutti quanti i pezzi, motori e cambi sono segnati. Però a ricordarti, a sentire il motore, se fa rumore, se non fa rumore, capito? A metterlo a posto perché sai che è buono. Quello lì è bello. E lì è bello, arriva il bello lì. E va bene, va bene. Una cosa bella, dai, anche quella. E va bene. E anche tu sei sempre là, o sei in pensione adesso? Io mi fai bene, ancora farò la pensione. No, io diciamo che sto lavorando a fianco a te adesso. E dove esattamente? No, al cantiere comunale sono, abbiamo la postazione è giù all'ingresso del cimitero, là, quindi siamo quasi confinanti. Ehi, confinanti di ditta? Ma io sono sempre giù alle macchine, quello è. Lo so, tu sei giù, adesso io sono dove eri prima tu. Da, ma anche al cimitero già non rompono le scatole. Certo, è ora, altro che non rompono le scatole, io macello a passare ogni volta, è una tragedia, Lì c'è proprio pace eterna, Lì già non c'è né morto che ti disturba. Quello sì, ma ti va a trovarli e sempre rompi scatole. Roba di volte, tu pensa che un signore anziano, poverino, un giorno l'hanno chiuso dentro il cimitero ed era a voci, sicuramente non sentiva tanto bene, ed era a voci, aiuto, aiuto, aprissimi per favore, se qualcuno mi ascolti, poveraccio, alla fine è venuto la guardia e l'ha riaperto. Poveraccio, disavventura, che sura, dovete rimanere se non è vero. Quel signore se non è morto il giorno dallo spavento, un paio di anni ancora già si rigioca. E si è allungata la vita adesso. A voglia. io. E va bene, dai, chi è arrivato qua? Giuseppe, sono io, di Platanone. No, Giovanni, mi ero spostato un attimo anch'io, comunque sono rientrato in ascolto. Anche qua la fissi. Sì, anche Andrea, vi stavo ascoltando, Daniele. Cappa, dai, riprendete. Cappa. E niente, io ho rimesso l'antenna come era prima, va, più di così non posso fare qua. Guarda, per me va bene. Ti sento bene lo stesso. Va bene. Poi non so, gli altri più lontano già cosa dicono. Io da certo pezzi non lo sentivo proprio, niente. Cappa. Andrea, tu mi senti ancora, sì? Sì, bene, forse un po' più di QRM, ma bisogna migliorare, dai, piano piano. È possibile che sia anche quel microfono, Giuseppe? Cappa, me lo devo procurare un microfono, perché ho anche picchi negativi quando parlo. Cosa c'è, lo spinotto a 4? Cappa. Aspetta un attimino che controllo se ne ho qualcuno in più. Bianco, un secondo. Ok, Bianco. Giovanni, ci senti? Adesso sì, basso, però ti ho sentito, sì. Vieni avanti. Io sono Andrea da Sassari, però, non sono Giuseppe Dattissi. Basso, ma ti sento comunque, Prima sì, avevo un po' più di watt, adesso li ho tolti per fare delle prove. Io comunque ti sento bene, dai. Allora, microfoni ho tre in poche parole. Due che te li posso anche regalare e uno te lo devo per forza vendere. Non lo so. Dai, adesso vediamo un attimino. Perché questo c'ha 25 anni, questo MVG4, quindi se riesco a salvarlo bene, però comunque un mic di riserva lo devo avere, se no è inutile. Ma la MVG4 è perfetto, magari ha appena di saldatura fredda, che non ti va bene. Dai una controllatina, quello è una bomba come microfono. Lo so, ma lo sai quanti anni ce l'ho questo? Ho modulato con questo veramente per 15 anni. senza mai toccarlo, senza nulla, e ancora oggi sta funzionando. È solo che in mezzo della batteria si scalda, giusto? Mi scalda parecchio, sì. Adesso, anche adesso, toccandola, aprendo il vano batterie, è bollente proprio. Però adesso ha cambiato un pochino la voce, di radio si è salito un pochettino e c'avevi il QRM per appena di meno. Cos'hai toccato? Qualcosa dal microfono? No, ho fatto come Paoletto Falcone, l'ho preso in mano, sicuramente ammassa. O magari gli manca qualche massa. Perché come l'hai preso in mano sicuramente è salito un pochettino, ha migliorato. Kappa. Vabbè che magari tutto l'impianto è da mettere a massa perché è appoggiato sul marmo e bastami, senza la massa collegata da nessuna parte. Prova a fare una cosa. Prendi un filo di rame, lo colleghi allo spinotto all'esterno ovviamente alla massa e allo spinotto esterno della massa della radio. Prova a fare una cosa del genere, un attimino. No, aspetta, non ho capito però. Dove lo devo attaccare lo spinotto? Lo fai uno allo spinotto del microfono, un filo, e l'altro capo lo fai all'altra parte della radio, allo spinotto sempre. Aspetta, allora, io ho lo spinotto della radio, quello a 4, ci attacco un filo di rame, lo appoggio alla ghiera esterna e l'altra estremità dove l'attacco? Alla radio, al microfono, a un telaio del microfono. Aspetta un attimo. Perché è successo anche a me quando avevo il Galaxy in quel microfono, al Master Plus. E poche parole, Claudio mi aveva consigliato di mettere una massa e avevo migliorato lo stesso io col microfono. Allora, aspetta un attimo, dimmi se mi copi così. Danilo. Sì, vai tranquillo. Allora, blocco la portante un attimo, Allora. Adesso ho il filo di rame attaccato alla scocca del microfono, però ancora no. Adesso lo appoggio allo spinotto del microfono, guarda se cambia qualcosa. Adesso 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, non è cambiato niente, magari stai toccando con la mano la scocca del microfono. Scusa un attimo, io qui l'ho sentito migliorato, l'ho sentito migliorato qua io, comprensibile, prima non lo capivo quasi niente, adesso l'ho sentito molto meglio. Il rame, qui e il rame qui, dimmi un po' se cambia, 1, 2, 3, adesso tolgo il filo, 1, 2, 3, rimetto il filo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per me qua Platamona sei comprensibile, qua c'è il suo pettine, però fatti continuare a controllare da lui. L'hai sentita Giovanni? No, pensavo stesse parlando con te, dimmi. Ha detto che prima ti sentiva incomprensibile. E tu hai sentito che è cambiato qualcosa appoggiando il filo? Ma lo sai cos'è? Quando lo appoggi nel microfono lo stai sempre toccando con mano. No, perché lo sto tenendo per la plastica, proprio cercando di non toccarlo con la mano. Dove lo stai appoggiando? Su una vite, su una parte metallica non verniciata? Sulla ghiera proprio dello spinotto, sul PL diciamo. Guarda, adesso è appoggiato e io il filo non lo sto più toccando. Aspetta un attimino, aspetta. Ecco qua, adesso non sto toccando nulla. Secondo me c'è un qualcosina in meno di prima, però si sente ancora, il radio sei forte, hai migliorato molto da poco fa, da quando abbiamo incominciato, però c'è sempre quel QRM dietro che ti segue, vabbè che sto usando anche i filtri adesso, che QRM in poche parole, con radio a zero senza nessuno, non la sento, però adesso come è collegato il rame, come stai toccando e tutto quanto, è migliorato un pochettino di più. Non so se Giovanni ti sente, però qua è migliorata leggermente, non molto. Io lo sento molto meglio, continua a dargli qualche consiglio che forse la risolve, io lo sento molto meglio. Scappa Giovanni, scappa. Aspetta che provo fare il microfono alla scocca del baracchino. Sentime. Ok, aspetta che stiamo facendo una prova che magari riusciamo a recuperare un microfono. Guarda, infatti, già sono qua. Quasi tutti qua siamo, là. No, ha migliorato un pochettino. pochettino di radio, là, già meno, meno rumore dietro che ci porta. Beh, ci credi che se tocco la scocca del microfono e tocco qualsiasi vite del baracchino mi dà portante? Ovviamente toccandolo con le mani, invece toccandola solamente col rame? No, no, appoggiandoci il rame al baracchino e al microfono mi mette a portante. No, allora non è quello lì, non è la massa. Però poco fa hai guadagnato qualcosina toccando con la massa, facendo una massa del genere. Non te lo so dire cos'altro macinare. L'unica cosa è controllare, aprire il microfono e controllarlo. Magari diamo con mio fratello Andrea e magari va semplicemente pulito, c'è qualcosa che non è collegato benissimo. Dai, adesso ce l'ho in mano, così mi sentite meglio un pochettino, dai. Io lo sento, e tu Giovanni lo senti bene? Abbastanza comprensibile, sì, lo sento, abbastanza comprensibile. Kappa. Bene, dai. Mi piace questa cosa che siamo tornati tutti a fare controlli, a sperimentare, a migliorarci. Mi sembra di essere tornato 20 anni indietro, dove si passavano nottate intere a fare controlli. Che figata. Perché quanti anni hai, Giuseppe? Io ne ho 45 e modulavo da quando ne avevo 15-16 e sono stato in frequenza parecchio, ho smesso 15-17 anni fa, però ho modulato una quindicina d'anni buoni. Allora siamo sempre dalla stessa patria, là. Siamo sempre dalla stessa barca, io 78 e tu 75 o 76? 76, io ero del periodo con Bambolina, Cristian, Falcone, tutta quella gente lì, Foglia d'Oro, insomma, Consuelo da San Giovanni, eravamo sempre in ruota insieme, dai. Sì, è così, E anche Andrea, eravamo, siamo fratelli e dormivamo nella stessa stanza, quindi onorente partecipavamo sempre insieme. Cosa facevate a gara, chi prendeva prima il microfono per rispondere? No, diciamo che mio fratello studiava un po' di più e quindi mentre lui studiava io facevo ascolto e poi a notte fonda iniziavo a parlare. E poi abbiamo iniziato a fare packet con Natalino, con Salvatore Maestrale e con altri. E quindi insomma abbiamo continuato un po' su quella linea, dai. Vuoi faceva toccare a me di baracchino sguscio? A chi mi raggio pagando EU? Nei tempi però, è la gioventù. Ragazzi, io vi saluto e ci sentiamo alle prossime. Buon proseguimento e buon tutto. Ciao Giovanni, ciao, ben trovato, alle prossime. Sì, ciao Giovanni, ci sentiamo, alla prossima, ciao. Ciao, buon fine settimana, ciao. Ciao Giovanni, buon proseguo, alle prossimine, sperando di sentirci un pochettino più forti, dai, a prestissimo. Ciao Giovanni. Avanti Andrea. Ciao ragazzi, ciao. Sì, ciao, ho già salutato, non so se mi ha sentito, alle prossime. Avanti Daniele. Sì, Daniele. Sì, ciao Giovanni, ho salutato, già ci sentiamo le prossime volte. No, comunque, tutto un tratto Giovanni è sparito di radio, magari ha scaldato un pochino, che sono la portante, però è sparito piano piano, non l'ho più sentita alla fine. Magari stava parlando piano, c'aveva il mic distante, perché come segnale era sempre uguale. Sì, come segnale era sempre 9.20 qua, solo che è sceso di radio. No, non l'ho più sentita alla fine. Gappa. Va bene, mezzugai. Eia, bene. Lucio, noi ci vediamo domani pomeriggio, penso tardi, perché prima abbiamo qualche impegno noi. E quindi perché ora venite più o meno? Non lo so, perché siamo a pranzo fuori, ci avevano invitato per un compleanno. Tanto noi siamo dalle 4:30 alle 7:30 lì. E già ci vediamo sicuro. Gappa. Va bene, vi aspettiamo, così giocano i bambini. Eia, gappa. Anche i babbi giocano alla fine, magari mi di più. Ah no, i babbi mangiano mentre i figli giocano. E buonasera. E vai Tino. E allora? Dimmi, da dove mi hai riconosciuto? Cercando di fare qualche di un paio di antenne piazzate. Te la trovo che mi illumina la camera. Ciao Gianni. Buonasera a todos. Scusate se sono entrato così e lo stavo mettendo in macchina. Buonasera, anch'io sono entrato 102 in lontananza, ma non so chi sono. Sono Giuseppe Andrea. Ok, dai. Ciao Giuseppe, ciao Andrea, se mi ascoltate, io vi ascolto bassi bassi. Ma anche a me mi ascolti basso basso. Santiago 5, Radio 3, la mia stazione così. Ciao, e come mi ascolti a me? Santiago 7. Come stai modulando? Periferia Lazio, dai, TH Campagnolo. Ciao, ben trovato. Chi sei tu? Sono Andrea, via Mendola Bassa. Ciao Andrea, dai, ben ascoltato. Tiro muscolo da questa parte. Tino, Mara. Buonasera Gianni, Tino. Ascolta, ma segnale, non ti riferisco alle altre modulazioni a queste ultime che stiamo facendo sia ieri che oggi? Adesso è un po' così perché sto usando un'altra radio, però qua adesso stai arrivando Santiago Roma quasi. Cappa. Giusto per curiosità, poi fatemi mi sentite poi. Non fa niente se ho perso o cosa. Grava, questa è un'altra antenna T. Va bene, va bene. Daniele, a me come mi accetti dalla barra mobile sotto casa? Va bene, già, il radio fa bene, il segnale oscillante 8, 9, 9, 10, dai, normale. Cava, va bene, va bene. Sto partendo adesso, sono andato a fare una commissione e poi mi fermerò 5 minuti, dai. Dove te ne vai? A San Francesco modulare? No, sto andando in banca e vado, devo andare alla San Paolo, quindi me ne vado lì al quadrato. Bene, domani dovrei essere a San Paolo io, dovrebbe giocare mio figlio, adesso vediamo. Cava, andave. Chi c'è di altro che sono entrato così di prepotenza e... visto che c'è la guerra. L'importante è che avete l'elmetto, dopodiché tutto va bene. Buonasera l'amico in barra mobile, qua sguscio da Tizi. Va bene, va bene. Come Putin che ha detto che il presidente sarà lui d'ora in poi. Va bene. Gianni, guarda che ti ha salutato da Tizi, non so se l'hai sentito. Avanti Giuseppe. Ciao caro, eccoti. Adesso mi arrivi, mi oscilli tra 7 e 9. Io sono in macchina, sto camminando. Cappa, no, ti sento benissimo adesso. La magnetica da quanto è? Da 120. È uguale a quella che sto usando io adesso, dai, già va bene. Gianni, un info, non è che ti trovi invece una base magnetica per collegare una bibanda con l'attacco del PL? No, negativo T, negativo, non ho mai avuto con l'attacco a PL io, sempre normale, dai. No, non ne ho, no. Quelle lì le trovavi alla GBC un tempo, adesso non so se ce n'è ancora. Bene, va bene. Mi toccherà fare un attacco allora. Cava. Vabbè, la già la puoi fare, dai. Sì. No, ma era per non fare né buche né cianfrusaglie. Avrei messo direttamente la base magnetica e ciccia. A me va benissimo questa, Tino. La base magnetica va molto bene, come mi rende bene, dai. Non posso lamentarmi. Sì, vabbè, se non vuoi fare i furi, andare. Oh, nella macchina nuova fuori non li vuoi su. Va bene. Cava. Avanti, Daniele, fai girare, che tu sai chi c'è. Ecchine, dai. Facciamo riprendere a Giovanni Pantamona se c'è ancora. Ciao, è uscito Daniele. Ciao Gianni, ti saluto anch'io. Ciao Andrea, ben sentito, dai. Ti sento anche a te. Ciao, ben sentito. Avanti la ruota. Ecco qua, dai, è andato il radio. Andare. L'amico di Tissi, Andrea, se non mi sbaglio. Adesso vediamo. Lo vorrei provare per vedere com'è. Andrea è qua in via Mendola, Giuseppe è l'amico di Tissi, il parallelo di Andrea. Ah, Giuseppe, scusa. Giuseppe. Avanti. No, volevo vedere il tuo tuo segnale un attimino con un'altra radio. Sì, Santiago 7, quasi 8. Buono, dai. Considera che sto uscendo, boh, forse a 5 bar, va benissimo. Chi ha voglia? Cassa cassa. Dino, questo dipolo come lo faccio allora? Orizzontale o verticale a V invertita? A V invertita va bene. A V invertita, va bene. Però mi tocca mettermi il palo in facciata. Vabbè, io ce l'ho a V invertita e va bene. Ma per la 27 o per su? No, oh, vabbè, tra l'altro bando, tra la 27 ho solo la verticale. Ma voi invertite a 90 gradi per ombre. Poi per le altre bande vedremo più avanti. Sì, sì, sì. Com'è la voi invertita a 90 gradi, Gianni? Io non l'ho detto niente. Chi l'ha detto? Non lo so. Io. Danilo, tu sei il colpevole. Eglia. Scusa Gianni, ti ho confuso. Avanti, avanti, ragazzi. Io sono qua in via Luna e Sole, non so come mi state ascoltando. Sto sempre camminando, Mi stai bruciando tutto. Ui, Marcolino. Va bene, approfitto, vai, mi devo spostare. In quanto devo fare cosa prioritaria in casa, dai. Sono in Core X. Riprendi, Marcolino, così ti do il ben entrato. Scusate, sono entrato a gamba tesa. Ciao Gianni, no, volevo fare un QTC per Gianfranco, se era l'ascolto. Gianfranco, ci sei? Tu sei entrato a gamba tesa, ma io ti ho ammonito. Aspetti, che ho il volume basso, ripeti. Ho detto che tu sei entrato a gamba tesa, ma io ti ho ammonito. Perché sì, ma io voglio vedere la, come si chiama, la moviola, quella, come si chiama adesso? No, va bene così, fidati sulla parola. Il bar. Ecco, bravo, il bar. Sì, il bar, tutti al bar. Da quest'anno l'hanno inserito nella Formula 1 pure il VAR, beh, da Boccaria mi aspetta. Vabbè signori, buon divertimento, vai, mi devo spostare. Ehi a te, ciao, ci sentiamo. Un po' mi sgancio invece i bambini. Vabbè, ciao Gianni, ciao. Poi... Ciao. Ciao a tutti, ciao. Andrea, per far girare la voce. Ti stavamo salutando Tino, sguscio, fai un passaggio anche tu. Ah, capa, non mi sente, magari ci siamo parlati insieme. Ciao, buon proseguo allora alle prossimine, già ci becchiamo qua. Avanti, Andrea. Sì, chi c'era? Danilo, Gianni, ci sei? Ci sono, ma sarà da fare una commissione, mi dovrò fermare un 5 minuti, dai, poi riprendo. Mi devo fermare sui 5 minuti. Fra un po' mi fermo, lasci quando arrivo. Capa, Danilo. Sì, dimmi tutto. Per far girare la ruota, avanti. Ma io mi caccio un perno. No, mi stavo ascoltando perché sto scegliendo un pochino di lenticchie che ogni tanto trovo dentro le macchine. Cappa. Avanti allora, chi c'è? Sguscio. È cappa. È nuda. Ascolta Andrea, ma lo stai usando con quell'alimentatore tu il baracchino? O se, con la batteria? No, mi sono comprato un caricabatteria, quello mantenitore di carica della Tailwind, e praticamente lo sto usando con la batteria da 7A che è in costante ricarica. Sono riuscito a risolvere il problema dei 50 Hz, del rumore di fondo, e sono contento perché alla fine, anche se manca la luce, io sono sempre online. Cappa. Le vitamine invece le stai usando con quel mio alimentatore? Cappa, esatto. Adesso però ce l'ho staccato quello lì, perché devo prima accordare l'antenna bene, perché altrimenti scalda un po' troppo, capite? Cappa. No, vabbè, già funziona. Io la cosa allucinante è che adesso sto bypassando col lineare. Se stacco il lineare, attacco direttamente l'accordatore all'antenna, mi dà stazionario. Se invece in mezzo ci metto il lineare spento, come adesso, c'ho stazionario praticamente a zero. Vuol dire che il circuito complessivo, anche con il lineare spento, magari la lunghezza oppure queste cose qua, vanno a compensare e ti danno la cordatura giusta. Cappa, bianco un attimo che c'ho il telefono. Cappa, allora ragazzi, quando entrate siamo qui in ascolto, Charlie Rex. Vabbè Andrea, controllate lei quell'antenna su internet. Ancora no Dani, però mi sembra che la controllo adesso, va? Stiamo lasciando un po' più nel bianco, così magari qualcuno se vuole entrare già siamo qua. Sì, anch'io, sono un po', anch'io tanto mi devo muovere, ma rimango sempre in ascolto. No, la controllate, mi fai sapere se ti interessa o meno. Allora, io mi sono preso una boomerang perché non la posso mettere sul tetto. Bisogna chiedere a Sguscio se serve a lui. Adesso guardo le caratteristiche. Intanto lo vedo domani, come dire, di persona e ne parliamo. Adesso guardo un po' le caratteristiche. Ti facciamo sapere. Ok, no, poi se ti serve il numero lo puoi chiedere a Tino oppure a Luca. Ma capo, è lo stesso. Tra un po' cerchiamo di scambiarceli in modo tale che poi ci sentiamo, insomma. E in modo tale che se vi serve qualche pezzo di macchina, venite e me lo chiedete. Che non guasta mai, quello speriamo. Ascolta, lì stiamo parlando un tema di macchine, ma il 147 non c'è niente. Solo un pezzo costa 800 euro, un fanale davanti. Aspetta, vi siete sovramodulati, ho capito, fanalino anteriore e pezzi di 147. Chi è che è entrato? Avanti. No, sono io, ho visto il vuoto e sono intufolato. Ciao Dani, avanti. Stiamo parlando di pezzi di macchina e di antenne. Già mi sono ascoltato, mi sono allontanato un attimo dalla stazioncina qua. Ho detto Dani, ma pezzi di 147 di carrozzeria non ne hai? Ah, carrozzeria, dipende da quello che ti serve. Adesso è da vedere, non è per me. Per amico mio, non so se gli serviva il cofano e uno sportello anteriore sinistro. Sai cos'è? Grazie al 147 non ne abbiamo più, ci abbiamo trovato buttato. Però provo a chiedere magari se l'abbiamo smontato dentro il capannone e ti faccio sapere. Il capannone, se lo trovi nero è ancora meglio. Adesso mi stai chiedendo troppo, però la maggior parte delle macchine erano sempre tutte nere quelle lì. Brava, bene nera. A saperlo, cavolo, non ci ho pensato, l'avrei chiesto a te, che ci ha preso altri pezzi, però un po' sparsi qua in paesi, insomma, non tanto limitrofi, c'è uscito fino a Nuoro a prendere i pezzi. E cata fino a Nuoro, ne abbiamo tre spacciacarrozze qua, e tu ci sei uscito a Nuoro, anzi quattro, e ci sei uscito a Nuoro. Vabbè, non io, da è uscito lui, è andato a prendersi. E mi servono dei paraurti posteriore, ce l'ha trovato nero come la macchina sua, e l'anteriore invece se l'ha comprato nuovo. Quanto gli è venuto quello anteriore nuovo? Se non erro un centinaio di euro da verniciare. Sempre lì siamo con i prezzi, perché ormai sono macchine che ne trovi poche in giro, quello è. Che stanno iniziando a scarseggiare anche quelle. No, comunque lunedì quando rientro provo a chiedere al magazziniere e ti faccio sapere. Cavaliata, bene, meglio così, se gli serve, se si decide a cambiarsi questi pezzi, ma cavolo, già risolto, glielo faccio sapere e poi ti faccio sapere. Ok, no. Che ne entrano poche niente di queste macchine. Non ce ne sono quasi più in giro. Comunque se ne entra qualcuno già ti faccio sapere, là. Magari se ti servono altri pezzi pure. Chiaro, bene meda. Che continente, cavolo, te li tirano a fianco questi pezzi. Capito, il continente ce n'è un fiotto. E da Fenica hai provato a chiedere? A chi da? La Fenica, quello che c'è a San Marco, giù ad Alghero. No. Quello, no, non ho messo neanche occupato più di tanto, ho capito. Stavo facendo la maggior parte tutto lui. Ah, no, perché lui c'ha, non è che c'ha un campanone bello grande, è piccolino, però c'ha molta roba che conviene trovare, che trovi facilmente, no? Anche se è rara da trovare, la trovi facilmente da lui. Brava, buona sapersi. Poi glielo dico così, se serve altre cose, si organizza, c'è la punta di casino, se no quello che ce lo mette in carburante per sognare qualcosa si proviamo a prendercelo nuovo. Cioè tipo? No, l'ho detto, se ci deve uscire a punta di casino, tipo l'altra volta c'è sceso più giù di numero, non so in quale paese era, per prenderci un pezzo di macchina, cioè, quello che ha risparmiato nel pezzo ce l'ha rimesso in carburante poi. Ah sì, quello sì. Ma io pensavo che se ne avevamo un pezzo di carburante. Tipo galleggiante, roba così. No, comunque, da Fenica ogni tanto qualcosina di strano la trovi. Tipo, la volta scorsa non mi ricordo che pezzi stavano cercando, abbiamo chiesto a lui e lei già se ce li aveva. Bene, bene, a cava, cava. Va bene, dai, facciamo girare. Chi c'è, chi c'è? Andrei, ci sei ancora, riprendi. Ciao, ma no, vi stavo ascoltando. Niente, anch'io tra un po' vado che devo sistemare alcune cose. Io invece stiamo cercando eventualmente un fanale anteriore di Jeep Compass, però della 2021 magari non ce ne sono, perché stiamo cercando anche online. No, macchine recenti, così, poche niente. Magari dal massimo 2020. 2020 sì, anche Audi A6, però Compass mi sa che era quella del 2016, 2017, una cosa del genere. Scappa, confermo, l'ultimo modello prima del 2021 era quella del 2017, però sono cambiati completamente i fari, sia anteriori che posteriori, hanno messo la striscia LED eccetera. E va bene, ma tanto era messo in conto. Andrea, perché toccato l'hai? No, più che altro ad un semaforo il tram ha circonnavigato la macchina Gaia. Gatta, ma colpa del tram ovviamente. Sì, non si sa perché era un casino, nel senso che c'era il traffico bloccato, lei è passata col verde, è rimasta in mezzo all'incrocio e poi è passato il tram stretto e l'ha chiusa. Adesso bisogna vedere. Vabbè, non si vede molto, però il carrozziere dice che andrebbe cambiato e solo quello penso che costi tra i 400 e i 500 euro, una cosa esagerata. Attenzione, sul binario 10. Cappa, registrata l'attenzione. Cacca. Vabbè, adesso già si trova, dai, io l'avevo preso su eBay, non originale, però era compatibile, però su quella macchina nuova, mettitelo originale, vabbè, prego. Sì, buonasera a tutti, sono rientrato, dai, non mi sentite? A voglia, mi sei venuto giù con chi tu bip bip. Sono in macchina, mi Dani. Ancora in macchina, sì. Ehi, dai, mi sono fermato 5 minuti a prendermi un po' d'aria buona. Dani, io ti sento benissimo, ma il bip c'era anche prima, sì. Il bip, se voglio lo tolgo, se voglio lo metto. Cappa, perché non me lo ricordavo prima. Ti sento meglio di prima adesso. Cava, cava. Vabbè, prima era un movimento, adesso mi sono fermato 5 minuti. E spero che mi ascoltino tutti bene, dai. Da, chi è che si sente male con quel dito, con quel dito? Vabbè, se non sono così non li vogliamo sulla ruota 10. Ora ti sento benissimo dalla barra mobile, da Tissi, Giuseppe. Cappa Giuseppe, anche ti ascolto bene, dai, adesso che non sto camminando ti ascolto meglio. Mi sono fermato 5 minuti, vediamo un pochettino, dai, faccio una chiacchierata così non sto a scenderlo a casa. Ti la corrente in casa, così è? No, non è per quello, perché mi prendo un po' d'aria e poi sto aspettando, la verità, devo andare a prendere le pizze, sto aspettando, sto facendo l'orario, dai. In poche parole stai passando il tempo, no? Infatti, sì. Anche lui mi sembra fainessa stasera, che c'è in programma. Io l'ho presa l'ultima volta, la Fenì, adesso prendiamo la pista. Cappa, cappa. Ultima volta ho preso Fenì e ce n'è anche avanzata. Ma Fenì, salsiccia, cipolla, normale. No, con la cipolla. Ma c'è avanzata perché dove la prendo io, se tu fai una teglia piccola te la portano un bel e quindi ti avanza, capito? Te la prendono o un vassoio di quelli grandi. Cappa, cappa. Avanti queste portantine di sfondo. E infatti è Santiago 2 questa portante col bip. Oh boh, avanti. Adesso sei salito quasi a 3. Dai che ce la fai piano piano, dai, l'ultima parola devi dare solo. Babbo, è tra 2 anni e vuoi assillarlo, da? Che, a me non assilla nessuno, io sono in macchina, tranquillo e pacifico. No, il fatto è che quando parli tu, metto una portante, quello è. E allora evito. Vai, vai Gianni, continua, continua, che tanto la copri. Dì a bambino quando gioco a casa. È quello che gli dico io. Oh, ma esiste ancora quello strumento? Mi ricordo 20 anni fa che c'è chi si costruiva il coso per andare a bruciare i baracchini. Boh, non so di che cosa stai parlando, no? Solitamente si bruciava con lineare grosso attaccato e si potevano bruciare così. Era una cosa che trasmetteva onde elettromagnetiche, una scarica un bel potente, se ne andavano in macchina sotto e gli mettevano portante. È possibile, ci sono gli attenuatori però. Tieni, a casa tua che antenna hai, che l'altro giorno la stavo guardando. È una Super Lem. Come disegno rimane tipo la manto va turbo? K, sì. Come disegno, no, come la manto va 1 perché c'ha 4 radiali invece che 5. Però ce ne ha il doppio della manto per radiali. Ah, ecco dov'era il particolare che mi risultava strano, che erano molto più lunghi, sì. E infatti sono 4. La stavo guardando la volta scorsa. E mi sembrava la manto va. Stavo guardando bene e ho visto che i radiali erano molto più lunghi. Sì, i radiali sono il doppio, sono in 2 pezzi i radiali, capito? Sono 2 pezzi inseriti. È una bella antenna, dai, mi dà delle belle soddisfazioni. Anche come struttura è meglio della Mantova, perché praticamente come struttura c'ha una parte anche in acciaio, che è quella che infila nel tubo, è tutta in acciaio. Quindi molto più seria. Sì, sì, è della Lem, la Lem fa antenne serie. Questa che sto usando in macchina adesso è una Lem. No, ma che camminando poco fa, quando passi in mezzo alla città, molte volte ti fai a coprire, invece tu non ti stavi coprendo, sei sempre bello aperto come in radio. Perché è alta l'antenna, capito? 2 metri anche. È buona e alta anche. No, già se sono in acciaio inox sono perfette. Anche perché non si ossidano, non si... magari dopo anni e anni e anni la devi smontare e la smonti senza problemi. No, non ti stressa andare a smontarla in poche parole. Vediamo se fa la storia della Mantova. Cos'è, Cla? Vediamo se fa la storia della Mantova. Cioè la storia della Mantova che ti dà quanto quel QRM? La Mantova ha una storia per la 27. Vediamo questa, c'è cioè Gianni se fa la stessa cosa. Anche quella che tu bisogna avere se fa la stessa storia. Cioè, sono antenne nuove, perlomeno la mia non è nuova, è già conosciuta come antenna, la tua è nuova. Lascia perdere che stai parlando del pianeta di questo, ti ho già detto. Sto parlando che tu hai detto che è meglio della Mantova. Vediamo se è meglio della Mantova. Se vive come la Mantova. Io ho detto che è fatta meglio, che c'ha delle parti d'acciaio che la Mantova non ha. E le parti che si arrugginivano della Mantova ce l'ha in acciaio. Sì, infatti Claudio stava dicendo... negli anni, per gli anni che ha la Mantova, vediamo se negli anni che passano per quell'antenna che c'è tu, l'antenna rimane sempre la stessa e non dà gli stessi problemi che dà la Mantova. Non sappiamo manco se ce la facciamo con gli anni che ha usato la Mantova, perché non mi sa che prima che gli i risultati sono qui, non c'è assolutamente niente da parte in acciaio, molte antenne hanno parte in acciaio eppure si sfasciano da altre parti, però è tutto lì il discorso. La Mantova è una storia della 27, quindi spero che quella faccia la stessa cosa. Poi lascia perdere la Smart Tech, che stai parlando di un altro pianeta, proprio completamente di un altro pianeta, sia come costruzione della Mantova stessa, sia come costruzione di quella, sia come resa, come tutto un altro manco se campiamo per vedere se dura, con la guerra che c'è in giro. Sì, magari ci picchiano di te, portate non toccano a noi. Mi sto ascoltando, vai. Ho visto c'era anche una portante poco fa, col bimbo abbastanza forte qua. Dico prima Gianni, quindi non so chi sia, non mi interessa saperlo. Mi ascolto che sto guardando la partita. Ciao a tutti. Ciao Claudio. Poi ti chiedo una curiosità a proposito di guerra. Se come radioamatori siete interessati o in altro stato di allerta, diciamo. No, noi siamo in allerta come protezione civile, ma per quanto riguarda interventi per questo momento non c'è niente, assolutamente, perché l'Italia non muove un passo, che si arrangino, che facciano quello che devono fare. Ma noi andiamo a Berlusconi. Se fosse stato Berlusconi non sarebbe scoppiata di guerra. Sarebbe scoppiata le corna. Lo ricordate quando dei figli di Putin erano nella villa Certosa? Infatti, quello che pensare. Vabbè. Continuate, già sono qua io, non c'è problema. Scappa, crash. Ascolta, guarda che con Andrea ci stiamo riarmando per il packet, tu adesso ti metterai a ridere, però ci stiamo un po' attrezzando. Se coincide qualche volta, vediamo. Ma voi qualche tempo potete fare in base in frequenze amatoriali, quindi lo fate in 27, state attenti, sono le frequenze stabilite. Telesco radio di nuovo all'attacco. Ma qui sono a 27, lo possiamo fare. Ma cosa vuoi fare? In banda amatoriale? No, aspetta, in banda amatoriale, non si può fare. Ma Giuseppe, mi regattisci e te ne sacco le orecchie, la patente radioamatore c'hai tu per fare il pacchetto in banda amatoriale. No, pensavo che sulla 27 si potesse fare liberamente e non in banda radioamatoriale. Per fare in banda 27 non ci mette, ma ci sono delle frequenze ben stabilite e sono oltre il... adesso non mi ricordo se sono in basso o un po' più in alto, comunque non si può fare neanche in 27. Appena più in alto sono qua. Appena più in alto, infatti non mi ricordavo se era un po' più in basso o un po' più in alto, quindi si fuori in banda, perché le bande stabilite, le frequenze stabilite, lo sapete tutto, non vorrei segnare io che sino a 27.405 e il packet mi pare che parla a 27.550, quindi si è già fuori in banda, perciò ti sto dicendo quello che penso. E perciò bisogna prendersi la patente, Giuscio. In poche parole ci vuole la patente di la patente di radioamatore per poterti spostare di frequenza, giusto? Il packet da che mondo al mondo, il packet dell'RTTY, tutte le cose che ben conoscete da SWL sono, si fanno in banda amatoriale, non 27, la 27 è nata la canale 2, la canale 40, senza minimi termini, 5 watt, e come tutti sappiamo, poi è chiaro che ognuno ha casa sua, fa i cazzi che vuole, ben vengano, a me poco mi interessa, però tu mi hai fatto la domanda e io ti sto rispondendo, il packet non si può fare in 27. Te l'ho chiesto per saperlo, non c'è, come critico. Anzi, grazie delle informazioni. Va bene, ci attrezzeremo di conseguenza. Anche perché, ripeto, ribadisco, è stato riattivato il servizio a Scorradio, quindi ognuno poi vedrà quello che deve fare. È stato riattivato già dal 1° gennaio di quest'anno e stanno anche facendo delle belle cose. Va bene, tanto concessione non ce ne vuole più, stai uscendo pulito, non c'è nulla da temere, no? Appunto, concessione non ce ne vuole più, però i controlli vanno fatti lo stesso. Ah beh, su quello siamo d'accordo. Va bene, grazie Claudio. Avanti Andrea, se ci sei ancora, io mi metto un attimino in bianco. Anch'io. No, sono d'accordo con Claudio da quel punto di vista. Se l'escoradio doveva controllare anche le potenze in uscita, cose di questo tipo, anche se non c'è più tassa da pagare, insomma. Sono d'accordo. È giusto che ci sia il controllo, perché altrimenti non fa quello che le piace. Quella è una tassa di concessione governativa, non ha niente a che fare con l'uso delle radio. Per l'utilizzo, quindi, perciò, ben vengano i controlli, ben venga ognuno al suo lavoro. Perché la gente deve capire che le regole vanno rispettate e vanno cioè, continua a esserci gente maleducata, gente che fa i fatti sui, a me non mi ne affutti nulla, a me non mi fanno niente. Ho visto che ultimamente proprio qualcuno ha preso colpi forti, non qua a Sassari, ma in provincia di Sassari, proprio perché ha detto che lui non me ne fregava niente, benissimo. No, il fatto che non si paghi più la tassa, che sia liberalizzato, però devi sempre rispettare i limiti, soprattutto di potenza, che impone la legge ovviamente. Le regole vanno rispettate, Andrea, tu ti ripeto, ognuno a casa sua fa quello che le piace, però come abbiamo detto sempre, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io non entro più in merito a tutte queste stronzate, perché mi faccio i cacchi miei. Ribadisco, ognuno può fare quello che le pare piace, però poi non venga a dirmi a me era così, è così e basta. Le cose si fanno, però si fanno con assumendosi la, ognuno le proprie responsabilità, tutto qua. Io mi assumo le mie e gli altri si assumono le sue. Detto ciò, saluto, ho iniziato il secondo tempo, vai Danilo. Sì, bisogna fare ogni tanto questi controlli, vanno dove ci sono le antenne, di che questa antenna, lì ti secca e ci bruca, entrano, suonano, vogliamo controllare la base, il radio che c'ha, di queste antenne, ecco, questa è la documentazione anche delle radio, con documenti e tutto quanto, ok, puoi essere libero di parlare, invece se non sono in regola, prendono e mettono contro me e iniziano a sequestrare, quello lì è giusto. Inizia a sequestrare, sono 6.000 euro di multa, loro iniziano a sequestrare. Ma io avrei anche sequestrato il radio qua, perché loro possono anche continuare a rompere le scatole. Non già se le portano via le radio, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, già se le portano via. Che non li fanno mai questi controlli come devono essere fatti. Ogni tanto si dimenticano di passare dove dovrebbero passare. Basta essere coerenti e fare sempre la denuncia scritta con nome, cognome, indirizzo e vedi che loro si muovono. Se non c'è nessuno che fa la segnalazione scritta, capito? No, non si muovono. E c'è questo signore scatole a gente che non voleva romperle e quello ha preso, ha scritto, ha fatto nome, cognome, indirizzo, sono andati e gli hanno fatto 6.000 euro di multa e ce l'hanno portato via tutto. Paura ne fatto. Quindi, scusami, io mi manca la faccia, ma me non mi rompono le scatole, ma se qualcuno me lo dovesse rompere, io scrivo, mando e poi adios. Aspetta qua che ti metto a portante così non ti sente più nessuno. Ehi, guarda, per non sentire a me bisogna mettere un portante grosso. No, vabbè. Però dai, ma che tu sappia che hai anche le antenne giuste per poter ricevere, ma esiste ancora il packet in giro nella frequenza, dico, nelle sue frequenze? No, non ne facciamo più packet, abbiamo abbandonato da anni, ma ci sono altri tipi di attività più aggiornate, FT8, RTTY, qualcuno sta facendo, ma oramai il packet è andato nella storia. Vabbè, certo, vabbè, se devo mandare un messaggio lo mando in WhatsApp e butto prima, capito? Però era bello, cioè, l'idea era creare una piccola BBS tra amici, capito? Giusto per, ma così, per avercela, capito? Però vabbè, dai, adesso lo valuteremo e faremo quello che dobbiamo fare. Ah, prendi tra le licenze, sembrava il computer, studi, rimani a casa tua. Io ho assistito a un esame qua di Roberto a Sassari, favoloso. 5 minuti di esame, sei a casa tua, loro sono a casa loro. Basta studiare, se sei appassionato, te la prendi la licenza. Adesso penso che a giugno o a ottobre ci sia una bella banda, a sassaresi, alghiresi, dei paesi, insomma. Un bel gruppetto, ho visto l'elenco. Non lo dico quanti sono, ma comunque ce n'è da Sassari, ce ne sono 4, quindi. Fate una cosa bella, almeno siete sicuri, detenzione d'uso, poi ripeto, se uno vuole parlare parla, se non vuole parlare va dove piace, Giuseppe, io la penso così, dai che ci sto guardando la partita.